Storie italiane. L'onesto taglialegna. C'era una volta, in un piccolo villaggio, un giovane di nome Alan. Era un uomo molto onesto e per questo non prendeva mai niente che non gli appartenesse. Stranamente, però, viveva in una casa di ladri. Loro rubavano durante il giorno da tutte le persone del villaggio e di notte banchettavano con i loro guadagni. Ma Alan non prendeva mai parte ai loro banchetti. Non mi piace questo. Non ti piace? Allora dammelo, mangerò tutto. Cosa? No, non lo farai. Sono io il più magro qui. Dallo a me! Cosa c'è, Alan? Perché non ti piace il cibo? Non è il cibo. È questo modo di vivere. Non mi piace rubare. È la disonestà. Voglio vivere una vita migliore. Una vita migliore. No, cosa potrebbe esserci di meglio? Abbiamo tutto l'oro e tutto il cibo delizioso che vogliamo. Niente di meglio di così. Beh, penso che ci sia di meglio. Domani partirò e inizierò una nuova vita da solo. Ah, fai come vuoi. Buon per me, dato che avrò la tua parte di cibo. Tu? Oh no, non lo farai. Prenderò io la parte di Alan. Togli le mani da quel piatto. Zitti tutti quanti. Ah. Il giorno dopo, Alan partì da solo. Andò nel villaggio vicino per iniziare una nuova ed onesta vita. Quando raggiunse il villaggio, si sedette e si chiese cosa fare. Dovrei trovare almeno qualche lavoro che mi dia da mangiare e un posto dove stare la notte. Come posso farlo? Oh! Oh cielo! Tutte le mele! Ah, non ti preoccupare, le ho prese tutte per te. Ecco qui! Oh, che gentile! Devi avere molta fame! Vuoi delle mele? Oh no, non posso prenderle, sono tue! Ne sei sicuro? Mi sembri affamato! Sì, sì! Ne sono molto sicuro. No, non ho affatto fame. Oh. Beh, se non hai fame, c'è un orso che ringhia nella tua pancia. Ecco, mangia quanto vuoi. Posso comprarne altre. Davvero? Alan era così felice che divorò tutte le mele. La vecchia lo guardò e sorrise. Chi sei? Sei di qui? No, non lo so. Mi chiamo Alan e sono appena arrivato in questo villaggio. Devo trovare un posto dove stare e un lavoro per me stesso. È così? Allora perché non stai con me? Potrò nutrirti fino a quando non troverai un lavoro. Oh, sarebbe così gentile da parte tua. Grazie. Non ti preoccupare. Quindi, da quel giorno, Alan iniziò a vivere con la vecchia signora. Era una donna molto dolce e lo trattava molto gentilmente. Alan si chiedeva spesso come ripagarla. Alla fine trovò lavoro come taglialegna. Usciva ogni giorno, tagliava un po' di legno e lo vendeva. Ma i guadagni che otteneva non erano molti. Qualunque cosa guadagnasse, però, ne dava una parte alla vecchia signora. Un giorno, mentre era uscito per tagliare la legna, gli venne in mente una cosa. Oggi devo tagliare molta legna. Non c'era molto cibo a casa ieri. Se oggi ricevo più soldi per la legna che venderò, allora forse potrò sorprendere la vecchia signora. Potrei anche essere in grado di preparare un bel banchetto per noi. Era così felicemente perso nei suoi pensieri che mentre alzava l'ascia, questa gli scivolò e la lasciò cadere nel fiume vicino. Oh no! Quello era il mio unico modo di ripagare la vecchia signora. Come faccio ora? In quel momento, la fata del fiume apparve improvvisamente. Il taglialegna fu stupito nel vederla. Guardò la faccia del povero taglialegna e provò pietà per lui. Ehi, giovanotto! Sono la fata di questo fiume. Qualcosa non va? Oh, bene. La mia ascia è caduta nel fiume. È la mia unica fonte di guadagno. Oh, non ti preoccupare, la prenderò per te. La fata del fiume usò la sua magia per creare un molinello, dal quale uscì una bella ascia d'oro tempestata di splendidi rubini e smeraldi. La fata del fiume diede l'ascia d'oro ad Allan con un sorriso. Questa è la tua ascia? Oh no, non è affatto la mia ascia. Sei sicuro? Sì, ne sono assolutamente sicuro. Molto bene, fammi guardare di nuovo. La fata del fiume usò di nuovo la sua magia e questa volta ne tirò fuori un'ascia d'argento. Era tempestata di gemme preziose. Questa deve essere sicuramente tua. Ecco qui. Mi dispiace, ma neanche questo è mio. La fata del fiume sorrise e usò ancora una volta la sua magia. E questa volta, finalmente, tirò fuori l'ascia di legno del taglialegna. Eccola lì! Questa è la mia ascia! Oh, grazie, gentile fata! Ti ho offerto un'ascia d'oro e una d'argento, tempestate di gemme e gioielli. Ma sei stato onesto e hai chiesto solo la tua ascia. Sono molto contenta di te. La fata regalò ad Alan l'ascia d'oro e quella d'argento. Alan fu elettrizzato, ringraziò la fata e tornò a casa felicemente. Con i soldi che ottenne dalle asce, costruì una buona casa per la vecchia signora. Adesso vivevano una vita più comoda. Un giorno, Alan era fuori nel villaggio e stava parlando con alcune persone di quello che era successo. Erano tutti molto curiosi di sapere come Alan avesse avuto tanta fortuna. Hai rubato l'oca d'oro di qualcuno? No, non ho rubato nulla. È stata solo buona fortuna. Spiegò tutto ciò che era accaduto al fiume alle persone intorno a lui. Un amico, un altro taglialegna di nome James, sorrise maliziosamente. È così che ho preso le due asce dal fiume. La fata del fiume è stata molto gentile. Sembra essere una fata molto gentile, davvero. Quel giorno, James andò al fiume con la sua ascia di legno. Si guardò attorno per assicurarsi che nessuno lo stesse guardando. Quando sentì di essere al sicuro, gettò la sua ascia nel fiume e gridò drammaticamente. Oh no! La mia ascia! La mia unica speranza per avere denaro e cibo! Qualcuno, per favore, mi aiuti! Proprio in quel momento la fata del fiume apparve in un lampo. Che cosa c'è? Cosa è successo? Oh, buona fata, la mia ascia è caduta nel fiume. Oh, ti prego, aiutami. Non ti preoccupare, la prenderò per te. La fata usò la sua magia e creò un mulinello. Gli occhi di James si spalancarono e fu sopraffatto dall'avidità. È questa la tua... Sì, sì, questa è la mia ascia. Oh, grazie mille. James allungò le mani per prendere l'ascia d'oro. Ma la fata non fu impressionata dal suo comportamento. Tu, uomo orribile e goloso, mi dispiace per la tua disonestà. Non ti darò l'ascia d'oro e non troverò nemmeno la tua vera ascia. Va via. Con ciò, la fata del fiume scomparve e lasciò James triste e deluso. Era stato troppo avido. E ora aveva perso non solo la sua possibilità di ottenere un'ascia d'oro, ma anche la sua vecchia ascia. Quando Alan lo venne a sapere, si sentì dispiaciuto per James e gli regalò alcune monete d'oro. Ecco, prendi queste monete e comprati una nuova ascia. Ma ricorda, amico mio, è l'onestà che paga sempre. James scoppiò in lacrime e ringraziò Alan. Più tardi quel giorno, quando Alan tornò alla casa della vecchia signora, scoprì che al posto della piccola capanna, ora vi era una magnifica casa fatta d'oro. Alan ne fu scioccato. Cosa? Sto sognando? Proprio allora vide una lettera per terra. La prese e iniziò a leggere. Caro Alan, non solo sei stato onesto, ma anche gentile. Prenditi cura di te, con amore, la fata del fiume. Ops, la vecchia signora. Alan non poteva credere che la vecchia signora con cui aveva vissuto non fosse altro che la fata del fiume. Sorrise mentre le lacrime gli regarono gli occhi. Negli anni a venire, Alan adottò molti bambini, facendoli crescere per diventare cittadini onesti e gentili, assicurandosi così che il mondo fosse un posto migliore in cui vivere.